Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Eravamo ormai nella fase finale di un avvicinamento sotto controllo radar alla pista, quando la torre di controllo segnalò un'emergenza in corso. Un F-104 di un'altra base aveva avuto un'avaria e si stava dirigendo da nord verso il nostro aeroporto. Salve, sono Bruno Servadei, ho 72 anni, sono pensionato da ben 18 anni, vivo a Roma, sono separato e ho un sacco di nipotine. Sono arrivate delle storie in cui si parlava di fratelli in generale, in cui si parlava del legame tra fratelli nel bene e nel male. Sono arrivate poche storie però in cui ci sono due fratelli che si trovano in una condizione particolare come quella di stare in cielo, di stare in aria e uno dei due si prende cura dell'altro. Sono le 16:08 minuti, buongiorno a tutti, questa è Radio 24 e il programma si chiama Voi siete qui. Ogni giorno una storia diversa, ogni giorno una persona che la racconta. La storia di oggi è la storia di Bruno che appunto, come avete sentito dalla sua voce e dal primo pezzo che vi ho raccontato in apertura di programma, a un certo punto si trova in una condizione per lui normale perché l'ha fatto di mestiere, più tardi ci racconterà meglio, è stato in aeronautica per una vita, si trovava in quella condizione lì, stava per atterrare e a un certo punto gli dicono c'è un aereo con un problema, lui lo va a aiutare e scopre una cosa molto particolare. 349-238-6666, se avete un fratello o una sorella, se siete quindi sorelle o fratelli di qualcuno, ricordatevi il momento, ricordatecelo, il momento in cui lo avete tirato fuori dai guai. 349-238-6666. Sul profilo Facebook del programma che Voi siete qui Radio 24, Antonio scrive: quel giorno che per saltare un fosso ci è finito dentro fino alla ciotola, che non so in quale lingua significhi, meno immagino fino al collo o fino alla cintura, rischiando quasi di annegare. Fino al collo direi, perché la cintura non rischia di annegare. I miei non l'hanno mai saputo e qui sta tutto l'amore fraterno, quelli miei non l'hanno mai saputo. Cristina: da piccoli, piena estate, caldo soffocante, invece del riposino pomeridiano sgattaiolamo via io e mio fratello, io 8 anni, lui 6 e mezzo, prendiamo il canotto e andiamo in fondo al vigneto di famiglia dove c'è un bel fosso, saliamo sul canotto. Insomma, ve la faccio breve perché è molto lungo. E a un certo punto, mentre siamo proprio in mezzo al naviglio, al torrente, il fratello chiede: che cos'è questo? Non faccio in tempo a dirgli: è il tappo, non toglielo, che sento e l'aria che esce. Lo salva per la collottola Cristina al fratello. 349-238-6666. Ripeto, una storia in cui eravate con vostro fratello o con vostra sorella e l'avete tirato fuori dai guai. Se volete invece fare un salto sul nostro profilo Facebook, oltre al tema della puntata, come tutti i giorni, è un pezzo della storia di oggi, che è la storia di Bruno, c'è una sorta di contest che è partito questa mattina. Non ve l'abbiamo ancora forse mai detto ufficialmente, ma anche quest'anno Voi siete qui produce un libro, o meglio, un libro elettronico, un ebook, in cui ci sono alcune tra tutte le storie che sono arrivate. Verrà reso online, credo, tra un paio di settimane, giusto? E ieri abbiamo deciso, insieme a Francesco Pini, che ci sta facendo la copertina, quale sarà la copertina dell'ebook. Eravamo indecisi tra due. Se andate sul profilo Facebook, Voi siete qui, Radio 24, le trovate. Basta che mettiate un mi piace o un commento e le scegliamo insieme a voi. Ritorniamo alla storia di oggi, la storia di Bruno e la storia di legame tra fratelli. Era una splendida giornata di metà agosto, perfetta per volare. Dal mio velivolo stavo seguendo quello di un giovane assegnato da poco al gruppo. Era il suo terzo e ultimo volo di transizione sull'F-104S e non richiedeva da parte mia particolare impegno. Avevo già visto che il ragazzo sapeva il fatto suo e avrebbe completato il programma della missione di volo senza problemi. I piloti di F-104 arrivavano al gruppo di gioia del Colle della scuola di Grosseto con parecchie ore di volo già fatte sul biposto. E i 3 voli di transizione sulla versione S erano una pura formalità. Io sono diventato pilota militare perché facevo aeromodellismo e quindi mi piacevano gli aeroplani. Poi sono entrato in accademia più per fare il biennio di ingegneria che per fare una vita militare. Poi ho scoperto il volo e ho deciso che mi piaceva più volare che fare l'ingegnere. Eravamo ormai nella fase finale di un avvicinamento sotto controllo radar alla pista, quando la torre di controllo segnalò un'emergenza in corso. Un F-104 di un'altra base aveva avuto un'avaria

E cosa faceva il Quirinale? Ogni volta che si cambiava completamente vita. Sì, quindi, tra l'altro sembra una vita bellissima vista da questo punto di vista. Cosa facevi al Quirinale? Ero il consigliere aggiunto per l'aeronautica del presidente Cossiga. Quindi, cioè, Cossiga voleva sapere qualcosa sull'aeronautica e chiamava te. Certo, sì. Tipo, dimmi una cosa che ti ha chiesto Cossiga. Quando andavamo in giro, per esempio, mi ha fatto scrivere parecchie cose su Ustica, per esempio. Oppure io seguivo in quel periodo, avevamo le navi nel Golfo Persico, Persico, e quindi gli facevamo una specie di telegiornale delle cose militari tutte le sere in una sala la situazione che avevamo. Però andavamo in giro con lui tutte le volte, non so se noti, quando vedi in televisione c'è il presidente Napolitano, dietro ci sono sempre due ufficiali. Ecco, io eri uno di quelli. È uno di quelli. Che tipo era Cossiga? Ah, simpatico. Bruno. Simpatico, un sacco di battute, era abbastanza... Sì. Sapeva tutto di tutto. Se volete vedere qualche numero che fa Bruno, lo trovate su YouTube alla voce Bruno Servadei, si vede lui col suo velivolo. Grazie ancora Bruno per la storia e la chiacchierata. Ok. A presto, in bocca al lupo. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Voi siete qui. Ha un cappellino in testa Bruno nella foto che ci ha mandato. È la prima cosa che si nota, perché è un cappellino di una squadriglia, immagino che si chiami così. E immagino, adesso però sto andando a caso, immagino sia la pattuglia acrobatica, ecco, più pattuglia forse più che squadriglia, non so, uso dei termini che non conosco. Pietro, dai, non guardarmi così. E c'è una specie di scudetto italiano, perché c'è un tricolore, e una volpe o un gatto impressa su questo cappellino. Lui si è girato come se l'avessero chiamato Bruno, si è girato a un pizzetto minuscolo che è quasi quasi una mosca, un maglioncino grigio, una camicia, ha la faccia simpatica. La cosa incredibile di questa foto è che tu vedi il primo piano di Bruno, è all'aperto, c'è un prato verde, e poi ti accorgi che in alto alle sue spalle c'è uno che sta atterrando con un paracadute. Fraterno. Aggettivo appartenente o relativo a fratelli. Estensivo, amorevole e fiducioso. Etimo dal latino fraternus, derivato di frater, fratello. Data inizio secolo XIV. Come dice appunto Matteo, che è o XIV o XV. Come dice Alessandra De Luca, che dice sempre tutto perfettamente. 349-238-6666. Io 15 anni, mio fratello 3 e mezzo. Pranzo in famiglia con i genitori e altri due fratelli. Mi accorgo che al più piccolo va di traverso un boccone. Gli faccio la manovra di Heimlich. Credo che si dica così. Heimlich, che avevo imparato pochi giorni prima a scuola sotto gli occhi esterrefatti dei miei genitori. Ogni tanto ne parliamo ancora con grande meraviglia dei miei genitori. Quanti punti puoi guadagnare in famiglia salvando sotto... Poi magari uno avrebbe fatto... e si sarebbe liberato. Però alla storia, agli annali, passerà che tu in famiglia hai salvato tuo fratello con quella mossa imparata tempo prima a scuola. Quindi poi in realtà la stima ricade anche nei confronti del professore che te l'ha insegnata a scuola. Un po' come avevo sentito una storia del genere quando c'era stato lo tsunami in Thailandia. La storia di una bambina che aveva salvato tutta la famiglia perché quando aveva visto l'oceano ritirarsi... lei aveva da poco studiato che gli tsunami erano preceduti da un ritiro dell'acqua sulla spiaggia e aveva salvato tutti. Vabbè, adesso sto divagando totalmente. 349-238-6666. Mio fratello fa l'asino e rimane a penzoloni in una vasca usata dai contadini per bagnare le vigne. Io chiedo soccorso urlando a un signor vecchietto che ci ha fatto ridere per anni. Signor vecchietto, perché usa proprio il termine signor vecchietto. Molti anni dopo non ho potuto salvarlo da un incidente di volo me l'ha portato via. Quel ricordo però per me è indelebile. Grazie, Ala. Non so se è tronco, comunque... Ala, insomma, evidentemente è un nomignolo. 349-238-6666. Oggi si parla di fratelli che si salvano a vicenda. E raccontando questa storia e leggendola prima ancora, la storia di Bruno, mi è venuto in mente un libro che avevo letto un anno prima esattamente, perché ci ho ritrovato una carta d'imbarco. Sapete quando ripigliate in mano un libro che non prendete in mano da tempo perché l'avete messo nella libreria, e ci trovate o dei bigliettini o dei biglietti dell'autostrada autostradali. Io non so perché ho i biglietti autostradale, perché venivo a Milano col pullman dell'autostrada o del treno, o banalmente una carta d'imbarco. E quindi che data 21 aprile 2012. Questo è un libro che l'anno scorso ha vinto il premio Strega, che è il libro di Alessandro Piperno, si intitola Inseparabili, fa parte di un diade, si dice? Due? Tiziano, a diade, cioè sono due libri. Questo è il secondo di due libri. Insomma, è abbastanza famoso il libro, quindi è inutile che stia qui a raccontarlo e a presentarlo in pompa magna. La storia di due fratelli, della vita di questi due fratelli sin da quando sono piccoli, a cui succede una roba abbastanza imbarazzante nel primo libro, e questa invece i due fratelli sono cresciuti. A un certo punto però uno dei due si ricorda di una situazione molto particolare in cui mentre stanno giocando a carte a casa di amici, uno di questi, piuttosto sbruffoncello, li prende malamente in giro per una cosa terribile, che è proprio la cosa che succede nel primo libro, una cosa abbastanza imbarazzante, insomma non sto qui a spiegarvela. Uno dei due a quel punto, dopo un attimo di silenzio, si ribella e anche se uno dei due fratelli non si era messo nei guai, di fatto lo tira fuori. Le stelle sembravano ancora più vicine alla terra quando i due fratelli si ritrovarono di nuovo in strada. Era come se la luccicante immensità della volta celeste aumentasse il senso di solitudine che li attanagliava. Non solo non c'era bisogno di parole né di gesti per capire che ciò che li aveva radicalmente divisi negli ultimi tempi si stava rimarginando, ma sembrava del tutto appropriato che una notte così gelida e bella fosse testimone della più importante riconciliazione della loro vita. Filippo era tranquillo, si massaggiava il polso indolenzito. Raramente in seguito si sarebbe sentito adulto e invincibile come si sentiva ora. Aveva fatto ciò che c'era da fare: spaccare il muso a quell'arrogante. Aveva scaricato la tensione nervosa e placato il pubblico senso di giustizia che la madre gli aveva instillato. Semi, invece, aveva quasi difficoltà a respirare per quanto era emozionato. Ogni tanto gettava un'occhiata guardinga a Filippo e gli veniva da ridere. Quello era suo fratello. Il suo eroe era tornato. La sola persona con cui voleva stare era lì. Era certo che d'ora in poi Filippo non l'avrebbe più scacciato dal letto. La sola cosa che Semi avrebbe voluto fare in quel momento era mettersi a urlare «Ed ecco a voi gli inseparabili». Si trattava della battuta che Filippo aveva messo in bocca agli eroi del primo fumetto che aveva disegnato, o almeno il primo che Filippo, nella sua pudicizia, aveva avuto il coraggio di mostrargli più o meno due anni prima. All'inizio, di fronte a quei disegni, Semi aveva capito poco, li aveva trovati parecchio ridicoli, anche se, per non umiliare l'autore, si era ben guardato dal ridere. I protagonisti della striscia ideata dal fratello erano due pennuti vestiti da supereroi. Una versione ornitologica di Batman e Robin. A furia di guardarli, si era convinto che uno dei due goffi uccelli dal becco uncinato somigliasse a Filippo e che l'altro, invece, somigliasse a lui, Samuel. Infine, si era soffermato sui costumi, più o meno in mezzo al petto, al centro della blusa indossata da entrambi, c'era una I maiuscola. Perché questa I? Aveva chiesto Samuel, indicandola dubbioso. Sta per inseparabili. Gli inseparabili sono una specie di pappagalli molto particolari. Vivono tutta la vita assieme, uno appiccicato all'altro. Poi, quando uno dei due muore, muore anche l'altro. Graceless. Tra le cose che ci ha fatto e non ci ha detto prima al telefono Bruno, c'è una notizia che abbiamo scovato grazie anche a un messaggio di Filippo che è arrivato al 349-238-6666, ed è che dal 1968 al 1971 Bruno Servadei ha fatto parte della squadra nazionale di bob e esattamente nel 69 ha vinto la medaglia di bronzo agli europei di bob a 2. Bruno, ci hai detto poco, parlavi, raccontavi tutto come se fosse, capito, noccioline buttate lì. E poi Moreno invece, che era quello che mi ha fatto notare che Bruno era un generale, è carichissimo e scrive moltissimo su Facebook e dice: lo stemma, quello che vi ho raccontato, che non sapevo cosa fosse, lo scudetto sul cappello, è quello del 156esimo gruppo dell'aeronautica militare, primo gruppo dell'AMI al quale è stato assegnato il compito di attacco nucleare. Noi lo diciamo chiaramente col classico antimilitarismo che ci contraddistingue noi e tutti quelli della redazione. 349-238-6666. C'era un altro messaggio che diceva, l'ho perso perché c'è un messaggio che continua a caricarsi in automatica per primo e mi fa perdere tutti gli altri. E qua mi dice esattamente Elia, mi dice: i militari diventano quasi tutti generali prima della pensione. A me pare che in realtà non è che diventi generale, è che guadagni un grado di fatto, giusto, con la pensione. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questa puntata, che sono Tiziano Bonini, Margherita Ina, Pietro Lacorte. Ringrazio soprattutto Bruno per la storia che ci ha raccontato e per la telefonata che ha fatto con noi. Lo ringrazio soprattutto perché anche lui da oggi è un punto rosso su una mappa.